Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'Epifania tutte le feste le porta via. Buongiorno da Nicoletta, eccoci qui pronti ai blocchi di partenza per affrontare il nuovo anno. Si riparte, si ricomincia e si fanno i conti non solo con la crisi ma con i nostri progetti. Allora io direi facciamone pochi, buoni e salutari. Magari le vacanze hanno portato consiglio e avete deciso finalmente di investire su di voi. Bravissimi, se volete io posso darvi una mano. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM Nostalgia, le canzoni più belle per gli ultra trentenni. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero uno. Oh! Ovviamente perdere 10 kg. Numero 2. Mettere sempre a lavare le mutande della sera prima, ugualmente importante. Trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. Allora, sulle mutande da lavare, sul ragazzo da trovare, insomma, ci penseremo dopo. Adesso ci concentriamo sullo stile alimentare, su tre parole chiave: cibo, moto, equilibrio. Sono questi, no, i passaggi per fare il pieno di benessere. Scegliete la parola che vi ispira di più, quella che vi sembra meno faticosa. L'importante è partire. Vi do subito una buona notizia, perché sia che iniziate a lavorare sul cibo, quindi sul vostro stile alimentare, sia sul fronte dell'attività fisica o ancora sull'equilibrio emozionale, sappiate che fatto il primo passo otterrete dei benefici a caduta anche su altri campi. Insomma, se mangiate bene il vostro umore sarà migliore. Esistono dei cibi, lo abbiamo detto tante volte, anche in grado di stimolare la produzione di endorfine. La vostra prestanza fisica ci guadagnerà, ma se imparerete a lavorare sul vostro equilibrio emozionale vi accorgerete che la vostra dieta diventerà più equilibrata, perché ad esempio non userete il cibo per compensare le vostre carenze. Vi sentirete più vitali e quindi più propensi anche a muovervi. E se invece investirete sull'attività fisica, anche solo per potervi permettere, che so, una dieta un pochino più ricca, scoprirete con piacere che dopo pochi mesi i vostri gusti, le vostre scelte, anche a tavola, diventeranno più sane. Sì, cari amici, l'attività fisica non solo fa bruciare le calorie, ma rende saggi nelle scelte. Di tutti i vantaggi che derivano dal praticare un'attività fisica e che ci siamo sentiti ripetere chissà quante volte, ce n'è uno che invece è tutto nuovo. L'ho appena scoperto Miguel Alonso Alonso, un ricercatore statunitense dell'Università di Harvard. Oltre a essere fondamentale per mantenersi in forma e smaltire qualche chilo di troppo, fare sport contribuisce in modo decisivo a essere più attenti a quello che si mangia e a seguire una dieta più sana. Lo studio è stato realizzato incrociando i dati di diverse ricerche condotte sull'argomento in precedenza. Secondo Alonso Alonso, l'esercizio fisico sembra incoraggiare un'alimentazione corretta e quando viene aggiunta una dieta dimagrante, il trattamento contro i chili di troppo ha più successo e la dieta viene rispettata per un periodo più lungo. Insomma, lo sport praticato con costanza scatenerebbe un duplice effetto. Da una parte aiuterebbe a controllare lo stimolo dell'appetito, dall'altra modificherebbe i livelli di gratificazione e appagamento che si traggono dal cibo, comportando così benefici metabolici a breve termine e benefici comportamentali sul lungo periodo. Secondo il ricercatore americano, infatti, comprendere l'interazione tra l'esercizio fisico e una dieta sana potrebbe servire per migliorare le misure preventive e terapeutiche contro l'obesità, rafforzando gli attuali approcci e trattamenti. Intanto vi ricordo il nostro numero verde per intervenire in diretta: 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Abbiamo come sempre il nostro profilo Facebook su cui potete intervenire e scrivere. Intanto voglio salutare il dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di Mangia che ti passa. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi. Aggiungo anche che è un esperto del nostro Daily Lab, che vi invito sempre a visitare ogni giorno, e oggi il dottor Ongaro ci ha portato tre copie del suo libro Mangia che ti passa, che arriveranno a casa a tre di voi. Ma naturalmente vi facciamo lavorare un po', perché il dottor Ongaro ha preparato tre piccoli quiz, tre domande semplici che voi sentirete nel corso della trasmissione e alle quali siete invitati a rispondere in diretta. Oggi selezioniamo gli ascoltatori che chiamano il nostro numero numero verde 800 24 00 24. Dottor Ongaro, lei ha scritto Mangia che ti passa, ma sentendo la ricerca che abbiamo appena sentito spiccherata, verrebbe da dire muoviti che mangi meglio. Beh, senza dubbio, potrebbe essere un suggerimento per un nuovo libro, ma in effetti è proprio così, cioè quello che sta emergendo da molte ricerche, questa che avete selezionato è una recente, molto interessante, è proprio questo concetto complesso di stile di vita a 360 gradi e di scelte corrette e salutistiche in una direzione che si tirano dietro a ruota anche delle altre scelte che vengono in un secondo tempo, cioè se io miglioro la quantità di attività fisica che faccio, dedico un po' più di attenzione al moto e magari alla gestione dello stress, ecco che mi viene anche lo stimolo per mangiare meglio e sarò più attento a come farò la spesa e a che cibi selezionerò. Viceversa, se parto dalla dieta, perdo del peso, mi sento meglio, mi viene più voglia di fare attività fisica. Cioè, in sostanza, quello che emerge è che dobbiamo riprendere il timone della nostra esistenza, che non c'è una formula magica o soltanto un percorso da fare, ma è proprio riaumentare i livelli di consapevolezza, riprendere appunto in mano la nostra vita e, come stavi dicendo all'inizio della trasmissione, quello di magari fare poche scelte ma fatte bene, portarle fino in fondo. L'esempio che avete scelto di Bridget Jones penso che sia molto interessante, perché il film, oltre ad essere molto divertente, ovviamente sottolinea proprio una persona che insomma è un po' in balia delle onde, non riesce a trovare il filo della propria vita ed ecco che l'alimentazione diventa un modo di compensare altri problemi. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birken. Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare. Niente mangiare, niente bere, dottor Ongaro. Ecco, ci sono proprio delle cose da non fare. Sì, non vorrei essere preso per una nuova versione del dottor Birkenmeier, ma credo che sì, ci sono delle cose da non fare, ma il digiuno è una di quelle, però. Ecco. Bravo. Per cui credo che sia una versione un po' superata dell'approccio all'alimentazione. Oggi tutti stanno puntando molto di più sul mangiare corretto, il mangiare le cose giuste, piuttosto che l'essere ossessionati con la quantità, perché anche una quantità di un alimento che non è salutare, una quantità minima di un alimento non salutare, fa ovviamente un effetto più nocivo di una quantità più elevata di un alimento invece corretto. Quindi io punto molto sulla tipologia di alimenti più che sulla quantità. E poi noi a Essere Benessere, appunto con l'aiuto del dottor Ongaro e dei nostri esperti, puntiamo anche sulla gratificazione, non togliamo ma aggiungiamo. Sì, ci sono molti cibi che hanno anche, prima sono state citate le endorfine, ma basta pensare al cioccolato. Se scegliamo il cioccolato che sia vero cioccolato, non queste cose che hanno il 10% di cacao e il 90% di zucchero, ma il contrario, il cioccolato ha un'azione molto potente sul sistema nervoso centrale di produzione di endorfine, ma non solo, di stimolazione di circuiti di appagamento e di piacere che sono molto importanti. Quindi l'alimentazione corretta non deve essere vista con il modello Fantozzi Birkenmeier, infatti, privo di tutto. Per questo l'abbiamo messa, dottor Ongaro, e soprattutto per pensare di fare pochi propositi buoni e salutari. In linea con noi è tornato a trovarci Claudio Belotti, coach e anche esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno. Buongiorno e buon anno a tutti. Allora, sicuramente in questi giorni, nelle vacanze, insomma, abbiamo tutti un po' esagerato con le calorie ed è inevitabile che con l'inizio del nuovo anno tutti noi pensiamo, vabbè, quasi quasi devo, se non dimagrire, almeno cercare di correggere il mio stile alimentare. Poi però con il tempo bastano poche settimane e questo proposito viene accantonato. Invece noi oggi vogliamo cercare proprio una strategia insieme per focalizzare quello che vogliamo fare e cercare di portarlo a termine. Come si può fare? Allora, le ricerche pubblicate in questi giorni anche dai giornali italiani ci dicono che questo buon proposito di perdere peso viene fatto 5-6 volte dagli italiani prima di avere qualche risultato. E il problema nasce proprio da questo buon proposito, come Fantozzi promette alla Pina di perdere 5 kg. E questo non è un obiettivo, ma è un processo. Il primo errore che fanno le persone è quello di pensare al come fare, cioè perdere 5 kg nel caso di Fantozzi. Mentre l'obiettivo è pesare un determinato X kg. E questo ci permette al nostro cervello di vedere il risultato, mentre se noi diciamo perdere 5 kg, il nostro processo, il nostro cervello inconsciamente pensa a tutte le cose che dobbiamo fare, rinunciare alla Nutella, fare attività fisica, e quindi vediamo lo sforzo ma non il risultato, che è quello che noi vogliamo. Quindi la prima cosa da fare è dire quello che vogliamo, non il come, ma il cosa. E fare un'immagine mentale. È famosa lo scherzo che fanno alcuni, io conosco, di prendere il corpo di una fotomodella e appiccicarsi sopra la propria faccia per avere un'immagine di quello che noi diventeremo. Sì. Ora può essere buffo, ma se aiuta va bene. Magari non prendiamo una fotomodella anoressica, che non è quello il nostro obiettivo. La seconda cosa che dobbiamo fare, la prima è decidere cosa vogliamo, la seconda è darci delle buone motivazioni, perché lo vogliamo, pensiamo come staremo, quando staremo meglio. Il cervello vuole star bene, se noi pensiamo alle cose da rinunciare, non avremo voglia. Se noi pensiamo a quanto staremo bene e quanto staremo bene noi, non come Fantozzi che promette alla Pina di perdere 5 kg, noi lo promettiamo a noi stessi perché poi noi staremo bene. E questa è la gratificazione di cui tu parlavi prima. La terza cosa, come dice il dottor Ongor, sono pienamente d'accordo, trovare tante piccole abitudini. Non bisogna fare il digiuno, non bisogna fare la maratona domani. Incominciamo dalle piccole cose, magari mettiamo un po' meno zucchero bianco nel nostro caffè, magari se abitiamo il primo piano, lavoriamo il primo piano, prendiamo le scale prima, invece di prendere l'ascensore, magari parcheggiamo un isolato più lontano e facciamo qualche passo a piedi. Le tante piccole cose portano grandi risultati. Tutte le persone che hanno grandi risultati hanno piccole abitudini che però fanno continuamente. Al contrario delle persone che non producono risultati, che hanno tanti piccoli rituali che non mollano mai, e il cioccolatino prima di andare a letto, e la merendina magari presa dalla macchinetta, tutte piccole cose che però alla fine pesano. Fanno peso nel vero senso della parola. È vero, è proprio il caso di dire. Dottor Belotti, grazie per essere stato con noi, faremo tesoro dei suoi consigli. Tre passi, quindi tre spunti per fare centro. Grazie, ci sentiamo presto. E intanto, a proposito di propositi, andiamo a sentire la nostra domanda. Ricordate, chiamate subito per dare la risposta esatta. 800 24 00 24. Il dottor Ongaro, che è in linea con noi e che ha scritto per noi questi piccoli di test, assegnerà alla risposta esatta uno dei suoi tre libri. Qual è la percentuale di buoni propositi che vengono trasgrediti dopo averli formulati? A. 17%. B. 53%. C. 78%. 800 24 00 24 per rispondere. Allora, riprendendo gli stimoli anche del dottor Belotti, siamo o ci sentiamo in sovrappeso? Ci sono persone, dottor Ongaro, a cui bastano un paio di chili per sentirsi fuori forma, altre che invece per accorgersene devono proprio cambiare taglio, devono toccare con mano, anzi vedere i valori di colesterolo, pressione, trigliceridi sballati per convincersi a rimettersi in riga. Allora, ricontrolliamo il nostro indice di massa corporea, che dice dottor Ongaro, lo ripassiamo brevemente, oppure qualche altra indicazione per capire se è vero, è giusto, è arrivato il momento per ritoccare un po' il nostro stile alimentare? Allora, diciamo che ovviamente le statistiche ci confermano che il sovrappeso e l'obesità in Italia, come nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, non sono solo un'opinione, ma sono purtroppo un dato di fatto. Dopodiché è chiaro che ognuno di noi può percepire quei chili di troppo in maniera diversa, Ci sono delle misure abbastanza semplici che ci orientano e ci aiutano ad orientarci per capire di quanto siamo sovrappeso. L'indice di massa corporea è sicuramente uno di quelli, si calcola molto facilmente, semplicemente attraverso il rapporto tra i chili e l'altezza misurata in metri al quadrato, e vengono fuori dei valori che devono stare tra i 18 e mezzo e i 25 per essere corretti. Se siamo sopra quel valore lì, vuol dire che siamo già in sovrappeso. Senta, mi fa l'esempio molto semplice, sa che io sono un po'... Ma se uno è attorno ai 27-28 di indice di massa corporea, ha circa un 20-25% di peso in più. Ecco. Ma per formulare, quando lei mi dice come si fa quel peso diviso l'altezza al quadrato in metri, con dei numeri semplici, che così noi la seguiamo, facciamo fare tutto al calcolatore, ma sono dei calcoli che possiamo... No, è semplice. Se uno pesa per esempio 80 kg, può essere 80, supponiamo che sia 80 per 1,80 m, sì, fa 80 kg diviso 1,8 al quadrato, e quel numero che viene fuori è l'indice di massa corporea. È questo. Ma ci sono delle misure, Nicoletta, ancora più semplici, secondo me, devo dire anche forse più interessanti, per esempio la banalissima circonferenza addominale. Con un metro da sarto ci si prende la misura all'altezza dell'ombelico, se il maschio è sopra i 100-102 cm vuol dire che c'è un sovrappeso, se la donna è sopra gli 88-89 vuol dire che c'è un sovrappeso. Questo è un marcatore di una semplicità estrema, ma sul piano invece metabolico molto utile, perché non solo ci dice se siamo sovrappeso, ma ci dice anche se quel grasso è concentrato attorno all'addome, che è la zona ovviamente più preoccupante sul piano metabolico per il rischio di malattie cardiovascolari, di diabete e di quant'altro. Però se non avete a disposizione centimetro e calcolatrice, provate a chiedervi in quanto tempo finite il piatto che avete davanti. Dimmi quanto velocemente mangi e ti dirò se sei magro o grasso e se sei uomo o donna. I ricercatori dell'Università di Rhode Island hanno infatti dimostrato che gli uomini mangiano più velocemente delle donne. La stessa cosa, spiegano gli scienziati, vale anche per gli individui in sovrappeso, che svuotano il piatto più rapidamente rispetto alle persone più magre. Questi risultati sono stati illustrati al convegno annuale dell'Obesity Society di Orlando da Kathleen Melanson, Emily Ponte e Amanda Petty, secondo cui mangiare più lentamente equivale a introdurre meno calorie. Le ricercatrici hanno spiegato che gli individui più veloci consumano circa 88 grammi di cibo al minuto, i moderati 71 grammi e quelli più lenti circa 57 grammi al minuto. E mentre a pranzo gli uomini ingeriscono una media di 80 calorie ogni 60 secondi, nello stesso tempo le donne ne introducono solo 52. Gli uomini che mangiano lentamente lo fanno circa alla stessa velocità a cui mangiano le donne, che dichiarano di farlo velocemente. Inoltre, indici di massa corporea maggiore corrispondono a una maggiore rapidità nel mangiare. Infine, preferire cereali integrali rallenta la velocità a cui si manda giù il boccone, perché i cereali non raffinati sono più fibrosi e occorre quindi masticarli più a lungo. Le ricercatrici americane ipotizzano che la necessità di mangiare più velocemente potrebbe dipendere da un maggiore fabbisogno energetico, e che insegnare agli individui in sovrappeso a mangiare più lentamente potrebbe essere utile nei programmi di dimagrimento. Da Salute 24. È in linea con noi, quindi mastichiamo lentamente, e tra poco scopriremo perché, subito dopo i mercati a cui sto per dare la linea. Ma volevo sentire Anna, che ci chiama da Milano all'800240024. Anna, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho sentito un attimino la trasmissione, anche perché è tutta la mia vita è stata una dieta. Quindi assolutamente in tema, lei è preparata, Anna. Esatto, dovrebbe essere il 53%, anche perché uno parte inizialmente molto bene, sì, a distanza di un paio di settimane, se appena uno non vede un minimo di risultato, molla, si casca. È vero, Anna, è proprio così. Ma chiediamo al dottor Ongaro se questo 53 è la risposta corretta. Dottor Ongaro. Anna, mi dispiace, ma non è la risposta giusta. Allora, mi dispiace Anna, voi continuate a chiamare, intanto preparatevi perché ci sono altri due quiz per voi. A ciascun quiz è assegnato un libro, del libro del dottor Ongaro, Mangia che ti passa. Adesso noi dobbiamo andare a sentire i mercati e il meteo, poi ci collegheremo con la dottoressa Reverso, che forse è già in linea con noi, e vi spiegheremo perché masticare piano, con la bocca chiusa, come insegnavano le nostre mamme, aiuta anche a dimagrire. Essere e benessere. Rosalina, Rosalina, a me piaci grasso fina, ma quando è sera, ti sento masticare. Quando è sera, oh sera, ti ammazzi con il pene, amore mio, ti voglio bene come sera. E siamo tornati insieme, molti di voi ci stanno chiamando per rispondere alla prima domanda: qual è la percentuale di buoni propositi che vengono trasgrediti dopo averli formulati? Il 17%, il 78% o il 53%? In linea con noi abbiamo Sebastiano da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Sebastiano. Buongiorno, mi sente? Io la sento benissimo. E la risposta alla mia è quella del 78%. Dottor Longaro? Il 78% è giusto ed è una percentuale, come vedete, incredibilmente alta, e quindi bisogna essere molto attenti a come si formulano i propositi per essere sicuri di portare a casa il risultato. E tra l'altro, oltre che a formulare correttamente i nostri propositi, vi stiamo suggerendo dei piccoli stratagemmi. Uno di questi è masticare lentamente. Perché? Lo chiediamo al nostro professor Piero Barbanti, che è in linea con noi. Professor Barbanti, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata Nicoletta, buongiorno a tutti. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana. Insomma, sembra che bocca e cervello siano vicini e si parlino. Bocconi piccoli da masticare lentamente con la bocca chiusa. È uno stratagemma salvalinea. Sì, direi che è uno stratagemma anche che nutre bene il nostro cervello. La ritmicità della masticazione è un fatto cruciale. Forse non lo sappiamo, ma tanti adulti che masticano gomme da masticare durante l'attività intellettuale o durante lo sport svolgono molte azioni su molti trasmettitori cerebrali. Viene aumentata la quantità di serotonina del nostro cervello e il primo effetto di una masticazione ritmica è un effetto antidolorifico. Questo è molto strano, forse legato alla distrazione, forse legato al fatto che un esercizio muscolare, in questo caso masticatorio, ha di per sé proprietà analgesiche. Un secondo effetto è che masticando ritmicamente caliamo il cortisolo, questo se lo dosiamo nella nostra saliva, vediamo che sta scendendo mentre mastichiamo, e questo vuol dire meno ansia e meno stress. Ma non è tutto, c'è anche uno studio che dimostra, una serie di studi che dimostra come la masticazione ritmica, proprio quella del chewing gum per esempio, aumenti la nostra stabilità posturale e addirittura aumenti la memoria di lavoro. La memoria di lavoro è quella memoria brevissima per la quale siamo in grado di tenere a mente un numero di telefono, per esempio, quando ce lo raccontano. Da questo derivano due aspetti. Il primo, che masticare le gomme ai bambini piace per il sapore, agli adulti serve per nutrire meglio il proprio cervello, anche per gli aspetti della memorizzazione. Sì. Il secondo aspetto è che gli anziani dovrebbero curare i loro denti, evitare i cappuccini serali e masticare, perché se è vero, come è dimostrato, che masticare attiva una serie di neurotrasmettitori cerebrali, beh, sarà meglio tenere i denti, masticare, gustarsi qualcosa di più e mantenere un cervello più in forma. Professor Barbanti, grazie, masticheremo a lungo. Questo è uno dei propositi del nuovo anno. Buona giornata. Arrivederci a voi. E allora, a proposito di masticazione, vi siamo pronti per farvi ascoltare il prossimo quiz, ma prima voglio salutare la dottoressa Paola Reverso, che è in linea con noi. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Medico, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te, oltre che esperto del nostro Daily Lab, pronta a suggerirci delle stuzzicanti varianti, perché la dottoressa Reverso insomma ci accompagna a scegliere, ma in modo molto permissivo, tra virgolette, vero? Diciamo che aggiungiamo invece che togliere. Andiamo a sentire il nostro quiz. Quanto tempo ci impiega lo stomaco a mandare il segnale di sazietà? A. 5 minuti. B. 20 minuti. C. 60 minuti. 800 24 00 24. È importante riconoscere il segnale di sazietà, perché questo ci evita di mangiare di più e inutilmente. Alessandro ci chiama da Roma e poi Elisabetta da Prato. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Sì, buongiorno. Io volevo porre una domanda sulla mia salute, se posso rispondere anche al quiz, è possibile? Sì, proviamoci. Allora, due piccioni con una fava. Allora, 5 minuti, dottor Longaro. Il senso di sazietà si attiva? Non è la risposta giusta. Non è la risposta giusta, ma Alessandro, forse lei ha la domanda giusta. Sì, guardi, il problema è questo. Io soffro di iperlipidemia genetica, non posso prendere le statine perché mi si alzano i valori del CPK. Sì. E poi ho problemi di irritabilità intestinale. Allora, oltre a tenere un peso, forma e fare molto movimento, faccio una dieta con solo salmone per le proteine, latte di soia e cereali integrali, oltre frutta, verdura... eccetera. Volevo sapere se è carente come dieta oppure devo aggiungere qualcosa. Allora, quando mi sento la parola aggiungere, passo subito la palla alla dottoressa Reverso. Dottoressa. Direi che le proteine ci sono, i carboidrati anche, certo che la dieta deve essere varia, quindi mi sembra una dieta molto limitata. Un po' monotona come sapore, anche direi se... Direi di sì, anche perché come pesce ricco di acidi grassi omega 3, oltre al salmone che è quasi tutto ad allevamento, quello che troviamo noi, potremmo prendere anche del pesce del nostro Mediterraneo, che sardine, acciughe, sgombri, costano anche meno e va bene, c'è il problema delle lische, ma insomma non basta fare un pochino di attenzione. Non ci fermerà mica una lisca? Assolutamente no. Ecco. Allora, quindi soprattutto la varietà, e quindi se amate il pesce e volete variare oltre al salmone, come suggerisce la dottoressa Reverso, ci sono altre varietà, sono proprio il pesce povero, il pesce azzurro, che fornisce il nostro organismo di tutto quello che gli serve, di questi preziosi acidi grassi. Elisabetta da Prato, buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione, sono estasiata da tutti i vostri pensieri. Ho 55 anni, sono un'imprenditrice, lavoro 10-12 ore al giorno. Fino a 48 anni ero in sovrappeso, la mia massa corporea era 30. Seguendo un percorso alimentare bellissimo, sono arrivata a 12, ma la brutta, diciamo, il mio comportamento mi ha riportato a 28, ho ripreso 12 kg, ne avevo persi 20. Sì. Sto tentando da tantissimi mesi di rientrare nell'emozione che ho trovato quando ho iniziato quel percorso. Poi Allora Elisabetta, secondo me lei potrebbe essere utile riascoltare, magari, cosa che potete fare sempre in podcast, si può scaricare i consigli del dottor Belotti. Che dice dottor Ongaro? Il dottor Belotti aveva detto di puntare un po' sulle cose da fare, darci delle motivazioni concrete. Potrebbe essere utile? Sicura, assolutamente, anche perché è una cosa molto nota questa, cioè si entra in uno stato d'animo particolare e si ottengono dei risultati, non si riesce a replicare quello stato d'animo, si fa fatica pur seguendo lo stesso programma alimentare, è un'altra prova che psiche e corpo lavorano in maniera integrata, e quindi credo sicuramente molto nei consigli chiari e molto ben orientati che sono stati dati prima. E poi pensi, Elisabetta, che se ce l'ha fatta una volta, sarà sicuramente in grado di farcela anche una seconda. In ogni caso, noi siamo sempre a sua disposizione. Ci chiami o ci scriva. Dario ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Eccoci. Allora, io chiamavo per testimoniare la mancanza di propositi, insomma, meglio, l'avere grandi propositi ma non riuscire a portarli avanti quando si vuol perdere peso. Perché sono stato sempre oggetto negli anni di periodi di grosso sovrappeso, a quel punto c'è il panico, ci si impegna prendendo una dieta drastica, se non addirittura il digiuno, si perdono anche 7-8 kg in una settimana, si comincia a fare un po' di sport, eccetera. Poi al decimo giorno comincia a calare l'interesse, ci si rilassa, e tutto va un po', vero, va a rotoli, si recupera tutto. Quindi, tra l'altro Dario, adesso ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Reverso, si chiama effetto yo-yo, dottoressa Reverso. Dobbiamo dare la linea alle strade, ma c'è questo effetto yo-yo che non è tanto, non è auspicabile, perché è un po' l'effetto che si ottiene, che tante persone provano, nel dimagrire e poi ingrassare nuovamente. Ci sono persone che sono perennemente a dieta, saltano da una dieta all'altra, vi spieghiamo perché può essere dannoso e come evitarlo, e tra poco, oltre alle risposte al nostro quiz, ci sono 12 alimenti che noi vi suggeriamo. proprio a inizio d'anno da tenere nella vostra dispensa, nel vostro frigorifero, insomma a casa. Vedete quanti di questi ne avete. Essere e benessere. Effetto yo-yo, ne avete sentito parlare? Ce lo spiega adesso la dottoressa Reverso. Dottoressa Reverso, perché non è pericoloso e come possiamo evitarlo? Il corpo umano deve abituarsi. Quando noi dobbiamo perdere del peso, dobbiamo anche abituare il nostro organismo intanto a una restrizione calorica, ma poi dobbiamo riadattare il metabolismo. Quindi la cosa più importante è non avere fretta, perché quello che si perde quando si ha fretta di perdere del peso in realtà è acqua e purtroppo a volte è anche tessuto muscolare. Quello non dobbiamo perderlo, noi dobbiamo perdere massa grassa. E perdere massa grassa significa avere molta, molta pazienza, perché non siamo ingrassati in un giorno, e quindi è assurdo pensare di dimagrire in un giorno. E spesso l'effetto yo-yo si ha proprio perché si perde, con diete troppo drastiche, acqua e tessuto muscolare, ma di grasso se ne perde poi alla fine poco, per cui poi si recupera e poi non si adatta al nostro metabolismo. Noi siamo una macchina che va in economia e quindi dobbiamo abituare il nostro metabolismo, se magari è un pochino pigro, e ricordiamoci che la restrizione calorica poi a lungo andare rallenta il metabolismo e quindi ci crea poi ancora dei problemi, nel senso che perché il corpo non dimentica. Assolutamente no, abbiamo una memoria metabolica, una memoria cellulare, per cui occorre proprio avere la determinazione, come è stato detto più volte oggi, e la forza di volontà e fare piccoli passi, come pretendere di andare sull'Everest senza mai aver salito nessuna montagna. Non abbiamo fretta, alleniamoci piano. Anche piano, perché, piano, dottoressa Reverso, noi siamo qua tutti i giorni. 800 24 00 24, Daniela ci chiama da Bolzano. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Volevo dare la risposta al quesito. Mm? Secondo me è 20 minuti. Si attiva il senso di quanto tempo ci impiega lo stomaco a mandare il segnale di sazietà. 20 minuti, dice Daniela, ma voleva aggiungere qualcosa? Esatto, questi 20 minuti che comunque mi sembrano un tempo eterno, volevo chiedere ai suoi esperti se c'è modo di ingannare. Cosa si fa? Si gioca a carte, si chiacchiera, si beve? No, io ci ho provato in tutti i modi a bere tè, a bere acqua, a fare un giro, eccetera. A cantare, come si dice, ma lo chiediamo al dottor Ongaro. Dottor grazie Ongaro. Mille, grazie intanto, Daniela. Intanto diciamo che la risposta è quella giusta, sono in effetti 20 minuti e... anche qui ricordiamoci che cosa significa, cioè significa che se io in realtà mangio in 5 minuti non permetterò allo stomaco di inviare quei segnali al cervello che mi fanno fermare l'appetito e quindi regolare la mia nutrizione, per cui è fondamentale dedicare il tempo sufficiente ai pasti, non si può ingannare questo meccanismo, l'unico modo per ingannarlo è mettersi un orologio e fare in modo di metterci veramente 15-20 minuti per mangiare un pasto, tornando al discorso che abbiamo fatto prima, in partenza soprattutto masticare molto bene e lentamente. Andiamo a sentirci allora quali alimenti devono essere inseriti tra questi, ci sono alimenti che vanno masticati lentamente. Andiamo a sentire. Spezie come curcuma, curry, cardamomo, zenzero, cannella. Erbe aromatiche fresche ed essiccate, ad esempio aneto, dragoncello, santoreggia, timo, maggiorana. Semi oleosi tra cui girasole, zucca, lino, sesamo. Farine biologiche integrali come farro, camut, segale, miglio, avena, orzo, grano saraceno. Cereali integrali in chicchi, farro, camut, amaranto, quinoa, miglio, segale, orzo, avena, grano saraceno. Miso. Salsa di soia. Olio di noci. Germogli. Sciroppo d'acero. Cioccolato fondente al 90%. Bevande vegetali di camut, riso, farro, avena o miglio. Allora, 12, se vogliamo chiamare così, alimenti da inserire nella nostra dispensa. Dottoressa Reverso, con quali vantaggi? Beh, innanzitutto i vantaggi per la salute proprio in generale a 360 gradi, poi i vantaggi del gusto, perché abbiamo più sapori, quindi vediamo anche di coccolare un po' i nostri gusti a tavola. E poi vantaggi anche nel ridurre i grassi e il sale, perché poi usando erbe aromatiche, usando le spezie, Si usano poi alla fine meno grassi e poi tra l'altro l'aroma delle spezie, delle erbe aromatiche è esaltato da un buon olio extravergine a crudo. L'importante è aggiungerle a fine cottura, vero dottoressa Reverso? Sì, sì, sia perché si digeriscono meglio e poi perché aggiungendo alla fine cottura esaltiamo proprio tutto il loro aroma e quindi abbiamo proprio un piatto molto più saporito e possiamo veramente giocare con queste erbe aromatiche, con le spezie, ma così come possiamo giocare con le farine biologiche e con le farine integrali, con i cereali in chicchi, perché abbiamo veramente una grande varietà. Pensate che noi usiamo essenzialmente il riso e il grano, quindi due ottimi cereali, ma ne sono stati elencati altri 10 e quindi per 12 giorni noi possiamo variare la nostra tavola, perché è anche importante come mangiamo, con il piacere di quello che mangiamo, e che è un piacere che va al di là del cibo, è proprio dire oggi mi prendo cura di me, mi faccio un piatto colorato, mi faccio un piatto saporito, mi faccio un piatto sano. E a proposito di piatto, si cucina anche per gli altri, ma vi voglio introdurre al nostro test, al nostro terzo quiz, perché mangiate da soli o in compagnia? Andiamo a sentire. Mangiare assieme a 4 persone può comportare un aumento dell'apporto alimentare del A. 12% in più, B. 43% in più, C. 75% in più. 800240024, intanto noi andiamo da Sara che ci chiama da Pordenone. Sara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Io volevo chiedere un consiglio e casomai rispondo anche la domanda se possibile. Sì, certo. Allora, Sara, io ho un metabolismo fantastico per mia fortuna e quindi magari non ho problemi di peso alla fine e cerco anche di avere una dieta varia con cibi integrali, cereali e altro, però mi fregano i dolci perché sistematicamente devo inserire il dolce a fine pasto e quindi sia a pranzo sia a cena, Sara? Finisce anche sempre a merenda, anche a merenda. Sono proprio tremenda, quindi ma dolci, lo sforzo di usare cibi magari anche integrali, cereali, insomma vari, poi viene fregato da questa cosa qui, insomma. Allora volevo un consiglio per capire come. Allora io di consigli ne do due, uno dal dottor Ungaro e uno dalla dottoressa Reverso, che mi sembrano un po' Starsky e Hutch. Dottor Ungaro, siete un po' io quello che posso dire è lascio a Paola il compito di magari dare qualche suggerimento di come fare dei dolci che siano assolutamente meno nocivi. Quello che posso dire è attenzione a non illuderci che il fatto che non aumentiamo di peso significa automaticamente che certi tipi di alimenti non ci fanno male. I dolci ovviamente carichi di zucchero hanno un impatto sulla glicemia che va oltre il problema semplice del peso, perché danno dei grandi sbalzi glicemici che a lungo andare possono comportare dei problemi. Quindi insomma cerchiamo di non farceli diventare un vizio e poi ascoltiamo i consigli di magari come farli in maniera meno nociva. Dottoressa Reverso? Allora, potremmo fare degli spiedini di frutta che poi passiamo nelle nocciole tostate tritate in un pochino di sciroppo d'acero. Oppure potremmo fare semplicemente una mela con la buccia, togliamo il torsolo, la riempiamo magari con un pochino di uvetta, dei pinoli leggermente tostati, un pochino di miele, la mettiamo nel forno avvolta nella carta stagnola o nella carta forno. Certo che da un bel tiramisù ad una mela con l'uvetta e i pinoli al forno un po' di differenza c'è, ma Sara è ancora in linea con noi, quindi ci dirà se proverà queste ricette e soprattutto se vuole rispondere alla nostra ultima domanda. Che Le ricette proverò sicuramente. Ecco, dai. Mangiare assieme a 4 persone può comportare un aumento dell'apporto alimentare del 75%, 43% o 12%? Io pensavo un 43%. Dottor Ungaro, siamo in chiusura, ma la risposta non è esatta. Allora, apriamo invece questa la possibilità per i nostri ascoltatori sul nostro profilo Facebook. Che dici, Laura Vanossi? Sì. Laura Vanossi ha detto sì. Io saluto i miei esperti, ringrazio Carmelo Lauricello, Laura Vanossi, la dottoressa Reverso, il dottor Ungaro. Vi saluto, a domani.